professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Io a nome di molti ascoltatori della Zanzara voglio un nuovo partner per Cruciani. Allora, posto di Parenzo, possiamo prendere Portento, possiamo prendere il mago Telma, ma perché dobbiamo sopportarci il tuo leccaculismo quotidiano? Non ti sta bene tutto, hai rotto i coglioni, vai a fare in culo, ti pagano pure in TV, vai in TV. La colpa è di Cruciani, ha creato un mostro, tu sei un mostro, un compromediato, sei insopportabile. Cruciani, Parenzo, io vi prego, dovete far fare l'editoriale di questa prima puntata dopo tutto quello che è successo al buon Donato. Vi prego, è una richiesta che proprio viene dal cuore, grazie. Io direi di iniziare con che cosa? Direi di iniziare dopo quello che è successo nel fine settimana con le polemiche di casa nostra. Non ci occupiamo di sunniti, sciiti, tutto quello che l'analisi geopolitica, l'ISIS, i bombardamenti, la Francia, il ruolo della Russia, il ruolo della Turchia, non ce ne frega assolutamente nulla. Ci occupiamo di una delle piccole polemiche di casa nostra. Allora, il quotidiano libero, che piccole è successo? Piccole polemiche, insomma. No, polemiche importanti, per carità. Ne hanno parlato anche le TV arabe di tutto il mondo, quindi insomma. Sì. Benissimo, ottimo. Allora, ci siamo fatti conoscere così, ecco, sì, il quotidiano libero si è fatto conoscere così. Il quotidiano libero ha fatto un titolo molto forte, provocatorio, direi tra i migliori da quando esiste Libero, secondo me, che è Bastardi islamici. Ora è evidente che non voleva dire che tutti gli islamici sono bastardi, ma che coloro ma ci che giocava. Hanno... Certo, giocava su questa roba qui, che coloro che hanno fatto l'attentato sono dei bastardi, però sono anche islamici. E dunque le due cose possono andare insieme. Quelli che hanno fatto l'attentato sono islamici, perché sono islamici fino a prova contraria. Gridavano Allah Akbar, eccetera, eccetera. Sono islamici e sono anche bastardi, perché hanno ammazzato le persone a bruciapelo. Insomma, le hanno ammazzate, anche se le avessero ammazzate in un altro che modo. Che i fondamentalisti islamici siano dei bastardi non c'è ombra di dubbio. Sono anche islamici, punto. Allora sei che i fondamentalisti stai dando ragione. Ma, sì, ma tutt'altro, sono islamici, però sono islamici. Reputo quel titolo non solo una puttanata mega galattica, ma una roba neanche di cattivo gusto, proprio che stupida. Cos'è? Stupida. Stupida, una roba per vendere qualche copia in più, cioè, molto da poveracci, una roba da poveracci. No, adesso te lo no, ma diremo una roba molto provocatoria, una roba provocatoria, ma, sì, ma provocatoria pericolosa, è evidente. Pericolosa. Provocatoria è evidente che è provocatoria, ma proprio anche stupida, bassa, di una idiozia assoluta proprio. Idiozia assoluta. Io fossi 1,5 milioni di musulmani che vivono qui, più sì, tutti gli altri sparsi per il mondo, mi sentirei anche profondamente offeso. E dunque, cioè, cosa faresti? Causa è la libero. Libertà. Causa no. Libero, no. No, no, questa è la libertà dello e questa è quello dobbiamo difendere questa assolutamente questa sì. La libertà. Assolutamente sì. Cioè, questa è libertà. Libertà di titolare offendere anche in maniera offendere è libertà. Ma perché offendere? Insultare è libertà? Ma quindi perché ti non è l'Occidente, non è io non penso che la bisogna difendere chi offende. Beh, non, quello mi, non mi pare civile. A parte quello, sì, quello in ogni caso. Però ormai è così, caso. Quindi passerò io per il politicamente con il buonista. Tutte queste puttanate che vengono messe ma no, ma scusa, in giro. Io ti dico solo una cosa. Mentre voi siete il trionfo del politicamente. No, ma io non ho detto niente. Il trionfo del politicamente scorretto, islamici bastardi. Stai facendo tutto da solo? Certo che si può stai dire, mandarselo a quel paese. Giocano per un paio di copie in più. sui massacri che ci sono stati, perché voglio dire, fare una campagna di questo tipo mi pare abbastanza evidente per vendere qualche copia in più. Hanno ottenuto il risultato che certo in tutto il mondo, prima non li conoscevano molto in giro per il mondo quelli di Libero, adesso li conoscono, perché un quotidiano italiano ha scritto islamici bastardi. No, non ha detto bastardi islamici, ha detto ma non giochiamo con le parole, ma non giochiamo con le parole, ma il portavoce di Libero, vai, ma non giochiamo con le parole, semplicemente portavoce, condiviso questo titolo, stampa di Libero, ma sarà ufficio stampa tuo nonno capo ufficio stampa di Libero. Tu sei ufficio stampa di Libero. Io sono una persona libera, per fortuna, al contrario di te. Beh, Alfano su Salvini, sarei pagato, scusa, ma non lo so, sicuramente sei meno libero di me. Alfano su Salvini, perché sono meno libero, da chi sono pagato? In testa sei meno libero. Alfano su Salvini, ah, perché tu sei libero perché dici islamici bastardi. Io non ho detto islamici bastardi. Come, non l'hai appena detto? Ho condiviso quel titolo, quindi lo condivido. Lo facciamo il fatto dell'altra volta, avendolo condiviso, sei d'accordo? Assolutamente, islamici bastardi, quelli che hanno fatto l'attentato, quindi quelli che hanno fatto l'attentato, è un gioco di parole tutto, quelli che hanno fatto l'attentato, rimane lì scolpito quello, certo, che hanno quelli offeso, che hanno fatto l'attentato, avete, sono islamici bastardi, 1,5 milioni di persone, quelli che hanno offeso, fatto l'attentato, ma no, è un giochetto che, vabbè, non funziona, allora, oggi tutti, più allora mi vuoi dire, mi, ma mi non vuoi, funziona, vuoi interpretare quello state che penso, ma no, l'hai condiviso, quindi evidente che pensi, pensi che sono islamici bastardi, quelli che hanno fatto l'attentato, 1,5 milioni certo, di persone, quelli che hanno fatto, no, quelli che hanno sparato, avete offeso 1,5 milioni di persone, 1,5 milioni, Alfano su Salvini, tanto non ti entra dalla zucca. Alfano su Salvini, vai. A volte, ma è un retrogusto amaro e lo dico senza polemiche, ho la sensazione, dopo aver ascoltato Salvini, che quasi quasi il suo dispiacere sia che l'attentato non è successo in Italia, che in Italia non succeda nulla di tutto quanto di drammatico è successo nel resto del mondo, che lo metta nella condizione di poter fare un po' di cacciare e guadagnare un po' di voti. Salvini non è qui, potrà poi replicare quando vuole. Ma tanto lo fa, veramente. Come dire, se non è qui sarà in una delle 100 trasmissioni che girano, perché tanto fa il giro degli studi televisivi. Allora, la frase forte di Alfano è questa: a Salvini sembra che dispiaccia che non ci sono stati attacchi in Italia. Che è una frase molto forte, no? Cioè, secondo Alfano, a Salvini non importa assolutamente nulla di tutto quello che avviene, ma solo fare propaganda politica. Alcuni addirittura lo hanno chiamato sciacallo, sciacallo Salvini, per il fatto che ha twittato subito dopo gli attentati in un certo modo, contro ovviamente i terroristi, contro i buonisti, contro l'accoglienza indiscriminata, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, però abbiamo un nuovo numero dove potete mandarci tutto, potete mandarci messaggi, ma anche e soprattutto video, anche e soprattutto audio che possiamo mandare in onda. 393 71 71 701. Allora, segnatevi questo numero, 393 71 71 701. Per avere semplicemente detto perché non sono islamici e non sono bastardi quelli che hanno fatto l'attentato, mi sembra abbastanza scontato, almeno io così ho visto questo titolo di Libero, al contrario di quello che pensa Parenzo, mi hanno, ma chi se ne frega naturalmente, mi hanno semplicemente perché le persone segnalano e poi automaticamente vengono sospesi gli account, mi hanno sospeso l'account Facebook per 24 ore, ma sì, ma chi se ne frega, infatti anch'io ho segnalato che mi insultavano e hanno sospeso l'account, sì va bene, ma non, io non ho insultato nessuno, io segnalo sempre quando uno che io su Twitter mi insulta, non ho insultato, se supera nessuno un limite lo, ma io non ho insultato nessuno, segnalo. Ho semplicemente detto perché non sono islamici e non sono bastardi quelli che hanno sparato, quelli che hanno ammazzato, mi sembra abbastanza evidente, abbastanza chiaro, quelli che hanno sparato, ripeto, quelli che hanno sparato sono islamici. Beh, è un su gioco questo di parole, dai, è una roba evidente, è un gioco di parole, è una roba evidente, anzi anche peggio, perché è meschino adesso mettere peggio il taccone del buci, no, ma noi dicevamo è come l'ho vista, è proprio da infami, c'è cioè, gente che non ha neanche coraggio, questo rivolgiti a qualcun altro. Almeno, io no, l'ho vista anche così. Tu che l'hai condiviso. Io l'ho visto almeno così. Abbiate il coraggio di dirla tutta. Ma no, ma io non lo penso affatto. Di dirlo. Io ma non sì penso che lo pensate in fondo. Ma lo pensate perché chi? Siete gli stessi. Ma lo pensate voi che chi? Tu che lo dici spesso. Ma chi? Ma hai sempre detto che l'Islam non è moderato. Ma certo l'Islam non può essere. L'Islam ecco moderato qua. È molto difficile. Allora, certo. Abbi il coraggio almeno di andare fino in fondo e di dire, siccome non esiste l'Islam moderato. No, esiste pure. Sono tutti bastardi. Ma ditelo. Ma non fate le fighette. Non l'ho mai pensato. Ma io dicevo solo quelli che hanno sparato. Non l'ho mai pensato. Che è una roba da proprio da gente che ha paura, voi avete ma paura, fatto paura, fino in... ma come lo vi cagate in mano ora, ma non lo penso, peggio il tacone del bus, dice no ma noi dicevamo quello che lo penso, sparato, non lo penso, siete gli stessi che dite che non esiste l'Islam moderato, siete mazza gli stessi, ti accalori sì, in difesa logica... in difesa, di in difesa non so di chi, ti accalori no, su queste cose, mi accalori in difesa, dai, della logica, traffico, dai, traffico traffico veocilare la zanzara. We'll be right back. radiofonico, com'è che si chiama, La Zanzara, quello da chiudere subito, guarda, da chiudere. Allora, eccoci qua con Matteo Salvini. Ciao Matteo. Buonasera, buon lunedì a chi ci ascolta. Allora, voglio capire una cosa. Alfano ha detto che a te fa piacere, in sostanza, che se ci sono attentati in Italia. Cioè, che ti dispiace se fino adesso non ci sono stati attacchi in Italia. Tu hai promosso una cosa via Facebook, non so, via Twitter. Ma vi pare normale che il ministro che guida la polizia in un momento delicato come questo possa dire che a Matteo Salvini farebbe piacere ci fossero attentati in Italia? Che ne so, magari per Parenzo è normale. Ma lo chiedo a un ascoltatore qualunque, anche lontanissimo dalle mie idee. Uno no, può contestare Salvini, può, però non puoi dire in un momento delicato come questo, invece di preoccuparti delle altre centinaia di sbarchi che ancora oggi ci sono stati in Sicilia, no, Salvini aspetta l'attentato in Italia per prendere voti. Ma sei veramente squallido, sei veramente... Ma che hai intenzione di fare? Non ho capito. Ma in assoluta e totale sobrietà e sottovoce lo denuncio. Perché è come dire che uno qualunque degli ascoltatori... Lo denuncio per quale reato? Qual è il reato? Anche questa è polemica politica. Anche diffamazione. Nei dita di Conte, di Crude, pure voi, dai, Matteo. No, vabbè, ma scusa, un conto è dire che Alfano è inadeguato, che non è in grado di fare il ministro, che la polizia è ridotta in braghe di tela. Un conto è dire Salvini aspetta l'attentato in Italia per divertirsi. Questo è un demente. Cioè diffamazione, qual è il reato? Vedi te, diffamazione, c'è arrivato anche Parenzo che ringrazio. Certo, è diffamazione, ma infatti è una sciocchezza, è una polemica politica che un ministro degli interni probabilmente dovrebbe fare. E mi divide tutto da Salvini, perché io ho un giudizio pessimo di quello che lui ha detto in queste ultime ore, ma su questo ha ragione. Cioè, anche tu lo definisci sciacallo, Salvini, Parenzo? A differenza della Le Pen, lui e Gasparri, ad esempio, sono stati i primi a chiedere un intervento militare, avevano già pronti le portaerei. Ma lui lo definiscono sciacallo per altre cose. Quando la Lega votò contro l'intervento in Siria per paura che poi venissero a toccarci a noi. No, mentre io sono a favore dell'intervento. No. La Lega ha sempre votato contro le missioni all'estero, sempre. No, scusa, ti correggo. No, se un così. Intervento deciso, il problema è che l'Italia ha mandato le fionde. Le cerbottane. Non ha mandato niente l'Italia, appunto, per ora. Nulla. Quindi tu sei a favore dell'intervento militare? Avete cambiato posizione? Avete cambiato posizione. Posso essere accusato di tante cose, ma sull'immigrazione, sul pericolo del terrorismo islamico, sui controlli alle frontiere, sulle espulsioni, sto ripetendo testardamente le stesse cose da 10 anni. Da 10 anni. E mi secca dire: hai visto, avevamo ragione, che anche i barconi portano delinquenti. Però io non sto qua a dire avevo ragione io, vorrei che domani mattina l'Italia facesse qualcosa. Ma quelli che ti definiscono sciacallo, cioè perché ti sei avventato... Sono degli ipocriti, perché a me converrebbe anche personalmente, fisicamente. No, ma loro dicono che sei sciacallo, sciacallo perché 2 secondi dopo che c'è un attentato twitti subito contro, che ne so, il bonismo, contro... E me ne sto zitto. Venerdì sera, quando arrivavano le immagini, io avevo appena messo a letto i miei 2 bambini. E volevo guardarmi un telefilm alle 10:30, 11, tirando il fiato in santa pace. Quando vedo certe cose, dico, ragazzi, basta, che siano gli ultimi morti, facciamo qualcosa. Perché io me la prendo coi buonisti, coi silenziosi. Ma tu che faresti? Chiuderesti le moschee in Italia? Non ho capito, che faresti? Ma l'abbiamo già detto 30 volte. Cioè, chiudere tutte le moschee in Italia? Non tutte le moschee, l'hai detto anche Orlando. Le moschee a rischio, dove è provata la previsione. Le moschee a rischio erano a rischio anche prima. Ma perché non le abbiamo chiuse? Ti faccio un esempio, Viale Jenner a Milano. Chiudere Viale Jenner a Milano. Sono stati arrestati negli anni... È già di fatto chiusa. Appunto. È chiusa, la gente prega per strada. Ma vacci il venerdì. La gente prega per strada. Ma chiudiamo i siti internet che inneggiano la violenza, chiudiamo i propri... Lo fa la polizia postale, lo fa già. Ma naviga in rete adesso. Naviga in rete adesso. Guarda, vabbè, ma l'estremismo in rete c'è dappertutto, questo non c'è dubbio che ci sia. Però magari fossero si esprimessero in rete, perché almeno uno li identifica, no? Cioè... Nelle ultime 24 ore, fra Grecia, Slovenia e Italia, sono arrivate 12.000 persone. Le abbiamo identificate, ma non è che le tu abbiamo puoi... controllate. No, non c'è dubbio che tra questi ci possa essere qualche infiltrato. Su questo. Non 12.000 delinquenti, ma ne battono 12 su 12.000, abbiamo visto, per far casino. Quindi, poi io non dico, non potremo mai prevenire tutto e tutti. Non è che Salvini dice votami. Ma se tu oggi fossi ministro degli interni, qual è il primo provvedimento che prendi? Qual è? Cioè, diverso da quello che fa il governo italiano, il primo provvedimento concreto? Innanzitutto, come la Francia, io blocco le frontiere. Ma la Francia non le ha bloccate le frontiere. La Francia ha messo controlli. Ha rafforzato i controlli. Le frontiere non sono bloccate. Tu puoi andare in Francia con la carta d'identità, scusami, perché sennò perché sennò non ci capiamo. Non hanno bloccato niente. Se io Parenzo da Padova, da Roma, parto e vado a Parigi, vado con la carta d'identità. E mi controllano. Vabbè, certo. Sì, ti controllo un po' di più in questi giorni. Vai in questo momento. Chi ci ascolta in questo momento da Ventimiglia, dal Brennero, dal confine. Ma c'è la polizia che controlla un po'. Quello che vuole. Dall'Italia può fare quello che vuole. Poi che faresti? Cioè, espelleresti Alfano? Che faresti? No, beh, Alfano si dovrebbe dimettere se avesse un minimo di dignità. Ad esempio, in questa manovra economica che espelli la Fornero, che fai? Espelli la Fornero. No, per la Fornero questa roba non c'entra niente. Però questa manovra economica di Renzi. Vabbè, adesso la polizia, le cose, dai, sì, ma quello. No, ma però tutti i governi è così, dai. Forze dell'ordine. Ma tutti i governi hanno fatto dei provvedimenti per ma c'è la guerra. Ragazzi, vabbè, c'è la guerra. Non è che se dai soldi alle forze dell'ordine la guerra si risolve, c'è un altro discorso, ma un po' di controllo in più per strada, qualche presidio delle forze dell'ordine in più in strada sicuramente non è un problema. Poi le togliamo domani mattina le sanzioni contro la Russia. Ora, visto che l'unico che ormai lo dicono tutti che non si possono mondiale, fare due guerre insieme, diciamo, l'ISIS e la Russia. Ma siccome sono io da un anno e mezzo come uno scemo che vado sostenendo comunque che le sanzioni contro la Russia sono criminali e che Putin deve essere un alleato. Adesso lo dice perfino la sinistra. Svegliando. No, lo dice la sinistra. Lo facciamo. O per non dare soddisfazione a Salvini continuiamo a tenere le sanzioni. Senti, ma per i terroristi, una volta presi, in questo caso ci vuole la pena di morte o no? Che bisogna fare? No, io sono e la tortura? La tortura per ottenere informazioni? No, non mi metto al loro stesso livello. Io sarei per un ergastolo con lavori forzati a vita. E il titolo di Libero ti è piaciuto o no, Bastardi Islamici? Non mi ha scioccato. Non ti ha scioccato. In un paese di libertà di stampa è un titolo che ci sta, anche perché l'ipocrisia di gran parte del mondo islamico emerge ogni volta. Emerge ogni volta con una condanna. Quindi offendi un milione e mezzo di musulmani. L'Occidente. Ma perché dici offendi? Io questa cosa non la capisco. Un milione e mezzo di musulmani. Ma perché offendi? Bastardi islamici sono quelli che hanno fatto l'attentato, perché quelli che hanno ammazzato. Dicono giustamente su Twitter, evidente, come dire bastardi siciliani dopo l'esplosione tra Raisi e Palermo. Ma quella è una stupidaggine, nessuno l'ha mai pensato. Che vuol dire? Avete messo all'indice. Avete un cazzo perché oggi, non ho fatto io il titolo. Anche tu lo appoggi, ma non l'ho fatto io, se lo condividi, non è che lo appoggio, capisco qual è la razza di quel titolo, ma non c'è nessuna logica, c'è da contrastarla, secondo me. Ma voi che volete, la stampa tutta uguale? L'informazione tutta uguale, tipo il titolo del Corriere della Sera, i titoli di Repubblica, volete solo quello? Questo è un titolo provocatorio che dice una cosa, che quelli che commettono delitti del genere, che ammazzano a mitragliate sono bastardi, basta, e sono anche islamici nel caso. Perché? Ma non è che perché da subito è così, da subito spiegano, tanto devi fare il coglione, per cui dai, pubblicità, dai. Avete paura, avete. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Assurda, amici della Zanzara, popolo della radio, oltre a quella sul titolo di un giornale, cui non bisogna dare nemmeno troppa importanza, perché comunque il titolo di un giornale, certo, viene ripreso all'estero, eccetera, ma è il titolo di un giornale. È evidente che quel titolo ha un doppio senso e che vuole colpire al cuore, ma questo è evidente. No, perché oggi invece provavano a spiegare di no? No, non volevamo dire che. No, ma se si tirano indietro rispetto al titolo sbagliano. Mi pare di aver capito che la spiegazione, no, a parte, noi che, in nessun, realtà parte volevamo, che nessuno lo può sapere, no? Come viene inteso una cosa. Se uno spiega una cosa. Se l'hanno intesa tutti così, o sono tutti veramente. È evidente, è evidente che non potevano dire tutti gli islamici sono bastardi. Perché hanno io, per esempio, fatto una furbata meschina. Ma perché una furbata meschina? Ma perché? Per quale motivo? Assurda, perché qui non è che c'è da giocare con i morti di Parigi. Non c'è da giocare, siccome poi loro sono gli stessi che legittimamente, come te, ritengono, io non lo credo, che però cosa? Lo rispetto, che, cosa? Che non esista l'Islam moderato. Io non ho detto questo, tu io non ho detto esistono un sacco di islamisti moderati, hai idea, poco ho male. Detto che spesso calano le braghe, detto che non esiste l'Islam moderato, ma non importa. Tanto ti lascio parlare in libertà. Ma prendetevi la responsabilità, ti lascio parlare in libertà stasera. Ma perché non avete paura? Avete paura? Puoi parlare, io ho paura, io ho indossato le magliette di Maometto, sai che cazzo me ne frega a me. Allora bravi, cioè, via, avanti. A me che me ne frega dell'Islam di Maometto, a me non me ne frega proprio un cazzo. Oh, evviva. Qui figurati se ho problemi con Maometto, sei tu che hai problemi, io no. Tu hai paura, io no. Io non offendo nessuno. La differenza tra me e te è che io non offendo. Ma io non offendo nessuno. Io non offendo, è la differenza fondamentale. Comunque adesso, ma siccome scusami, loro... Non no, per capire, ma io ogni tanto posso offendere qualcuno quando dico quello che penso. Ma in questo caso che cos'è? Chi avrei offeso? Spiegami, perché non riesco a capire. Un milione e mezzo di musulmani, ma condividendo quando, quella cosa. Roba. Io ho detto che il titolo di libero assessori che è condividono un titolo le legittimo, cose. Punto. Ma è come quegli assessori fascistelli che ogni tanto dicono delle bischerate e mettono condividi. Condividono quel pensiero. Ma quindi qual è il pensiero? Il pensiero... Che tutti i terroristi... Che naturalmente chi ammazza è un estremista, un terrorista. La gente credo che abbia capito. Non è che siamo stupidi. E vediamo se ha capito, vediamo. Poi sì, adesso chiameranno quelli che diranno viva il politico, va bene, ma chi se ne frega. Sei tu che parli di politicamente corretto, scorretto. No, parlo quelli che diranno, ma come? Sei tu che hai tirato fuori questa roba qua. Siccome questi giornali, questa campagna in atto da tempo, che tu sostieni. Qual è la campagna? No, che io non sostengo sostiene nulla. Sostiene che in Italia... Io non sostengo nessuna campagna. Di cose, giustamente. Ma io non sostengo nulla. Sostenete che non esiste l'Islam moderato. Ma io non ho fatto lo sostengo per niente. Se poi uno fa un titolo islamici bastardi... Sì, qual è il collegamento, scusami? Ma qual mi è pare evidente, ma o siete tutti quanti degli stupidi, secondo te oppure io, siccome avete paura, giocate. Cioè, secondo te ora io sostengo... Non c'è da giocare oggi, secondo perché te ci io, sono dei morti, secondo te non c'è io, da giocare. Secondo te io sostengo che tutti gli islamici sono bastardi. No, tu sostieni... Beh, sì, avendolo condiviso, sì. Benissimo, Gigi provincia di Milano. No, Gigi provincia di Milano, te lo lascio dire. Ma è talmente una cazzata che te lo lascio dire. Gigi della provincia di Milano. Ma lo avremmo detto a qualunque assessore avesse condiviso altre cose su Facebook. Io non condivido, non sono assolutamente d'accordo su questo. Come abbiamo detto qualche giorno fa, quando un assessore di non so dove scrisse una corbelleria, Gigi della provincia di Milano, ma io l'ho solo condivisa, e tu giustamente gli dicevi allora la condividi. Sono due cose diverse. Ma non è che metti d'accordo con te stesso, però mi sono messo già d'accordo. Gigi dalla provincia di Milano è una contraddizione abissale. Gigi dalla provincia di Milano, io non ho affatto sostenuto e non ho mai sostenuto. Ma contraddizione, ma capisco, avete paura, d'accordo, io non ho paura di niente. Dovete fare i politicamente scorretti. A me di Maometto e degli islamici non me ne frega un cazzo, te lo dico subito, non me ne può fregare di meno. È chiaro? Gigi dalla... A me non me ne frega un cazzo. Perché sono un milione e mezzo di persone, vabbè, tra l'altro vivono in questo paese, arricchiscono anche questo paese. Ma nessuno dice cosa, se vivono in tranquillità, se non rompono i coglioni a nessuno, come tutti noi d'altra parte, come gli italiani, non, se non parlo propaganda, quel titolo significa che chi ha ucciso è un bastardo, punto e basta. E siccome, siccome è evidente che nel mondo i terroristi, fino a prova contraria, chi uccide nel nome di una religione, l'Islam moderato in Italia, io ho detto né da nessuna parte, perché siete gli stessi che nelle puntate precedenti e nei libri, negli inserti di Libero, avete sostenuto che non esiste in Italia l'Islam moderato. Gigi dalla provincia di Milano, questo avete sempre preso un euro da Libero in vita mia. Gigi il giornale dalla provincia di Milano, Libero e tanti altri, insomma, ma avete fatto delle campagne su questa roba. Tu quando ti conviene generalizzi, poi invece quando gli altri generalizzano oggi generalizzate. Io vado nel merito. Senti, io non ho mai preso un euro in vita mia, non esiste né dal giornale e né da Libero. Ho le mie idee e non mi rompere i coglioni. L'Islam moderato non esiste. Non ho mai sostenuto una cosa del genere. Gigi, anche questo. Mai. Vai a trovare un file che l'ho detto. Gigi, provincia di Milano. Siamo Gigi, provincia di Milano. Mai sostenuto una cosa del genere. Quindi esiste l'Islam moderato. Esistono certamente gli islamici moderati. Non c'è dubbio. Esistono islamici moderati. Meno male. Meno Gigi, provincia di Milano. Dimmi. Allora, Cruciani, ho capito che con te bisogna parlare solo di figa, perché se parli di figa con te allora si va tutto d'accordo. Vai, ma tranquillo, parla. Quando c'è da fare un discorso serio è meglio parlare con Parenzo, perché vai, parla con Parenzo. Più testa. Vai. No, a te volevo dire un'altra cosa. Allora parli con me, poi parli con me. No. Non allora, si può parlare allora, e poi parli con me. No, ti ho detto che con te bisogna parlare di figa. E allora vai, parla allora. Ma no, ma perché parla. non è il momento. E allora parla di qualche altra cosa con Parenzo, vai. Sì, allora volevo solo dirti me, è tutto il giorno che ma vuoi parlare con me o con Parenzo? Non ho capito. Ma con tutti e due, perché ma allora se vuoi parlare con me di altre cose parla con me di altre cose, altrimenti parla con Parenzo. No, ti contraddici, parlo di altre cose. Ti contraddici allora. Non mi contraddico, con te volevo parlare di figa, ma stasera non è il caso. Ah, vabbè, allora vuoi parlare anche di altre cose. Benissimo. Allora volevo aprire una parentesi con tutti e due. Sì. Allora Parenzo, è curioso quello che dice Salvini, nessuno vuole, secondo lui vuole che deve rimanere indietro, no? Però Maroni, che una volta ha fatto una proposta seria proprio in quest'anno, no? Lui gliel'ha bocciata categoricamente. Maroni era quello che voleva fare il reddito di cittadinanza in via sperimentale in Lombardia e Salvini gliel'ha bocciato subito. Vabbè, dai, forza. Invece, allora? Invece l'altra cosa cruciale che volevo dirti, sono indignato con la radio. Io ho 2 anni che vi ascolto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, tranne il sabato e la domenica che non lavoro. Sono indignato perché ieri, segnatevi questa data, 15-11-2015, allora? è la seconda festa della, della liberazione, in quanto un comune sciolto per vabbè per Gigi, mafia, arrivederci, però Mario provincia di Fermo, dai. Ciao Gigi, Mario provincia. No, no, no, ciao dire, Mario scusate. Provincia di Fermo, ciao Mario. Buonasera Cruciani, io chiamo per dire che dire bastardi ai musulmani è un onore, bisogna dirgli peggio. Perché sono tutti bastardi e anche qua. Figli di puttana. Perché adesso Mario, stai perché? Zitto, fammi chiudila, parlare. Ma chiudi, ma non si può perché offendere così. Sono dai, scelte ma... che vanno ai paesi, vengono in Italia, e te lo dico perché io ci lavoro con questa gente, sono aggressivi, vogliono comandare e fare come cazzo gli pare. E tu prova a dire una parola della religione loro, poi vedi come ti fanno il culo. Allora, qualcuno mi ha scritto, Mario, vuoi dire ancora qualcosa? Beh, sì, di volevo più, diciamo. Dire che io a loro addirittura a volte sputano per terra, gli italiani, non ci avete vabbè, sputare palle, per terra adesso qua. Che c'è. Sputare per terra a chi, a cosa? Non ho capito. Agli italiani, capito? Se io guarda, sono l'unico perché io dedico li fucilerei a tutti quanti. Fucileresti, non ho capito, fucileresti tutti gli islamici? Tutti, questa gente questa non serve, non vedi quello che stanno facendo in giro? Guarda che in Italia vengono solo a spacciare la droga. Vai tu al paese loro se puoi spacciare la droga, vedi, prova. Ciao, chi è? Mario era? Roberto Trani, vai. Buonasera, sì. No, la cosa che mi fa specie è sentire sì. La solita tiritira di Salvini sulla chiusura delle frontiere. Sì. Sembra che l'unica frontiera italiana sia le Alpi e poi il resto è tutto chiuso. Ma le frontiere italiane non c'entra niente chiudere, la Francia nemmeno no, le ha chiuse. Ma infatti è sempre sotto populismo. Il problema dell'ISIS ha ragioni molto più complesse. Nessuno dice che questo casino ce l'ha creato gli amici americani facendo tutti i casini nei paesi Afghanistan, Iraq, eccetera. E oggi abbiamo le ripercussioni sui nostri territori. Questa gente, tra l'altro, che sono estremisti dell'Islam e non generalizzando come non potremmo generalizzare tutti, è gente che attacca le famiglie, i luoghi normali, non va a attaccare in Europa le gendarmerie. Quindi vuol dire loro hanno capito che la guerriglia è molto più produttiva che un attacco importante. E quindi il problema è nei sistemi di sicurezza e non continuare a parlare di solite cose, di provvedimenti. Io sapevo che Salvini, Grillo e Vendola dovevano andare in Libia a sistemare i problemi, perché non ci vanno? Va bene Roberto, Maria Paola Milano. Io ho capito, no? Maria Paola Milano, vai. Ah, buonasera. Dunque, ci diamo una regolata a tutti. Mi sembra che stasera siete alla follia. Non riesco a capire perché non vi date una regolata. Dimmi. Io ce l'ho con la capra di David. Si Caffato. Può dire capra? Sì. Sì, può, certo. Ok. Può, certo. Allora, io lo sento con un entusiasmo a difendere sempre da una parte sola. Ecco, sono rimasta solo io e il foglio che difende gli ebrei. No, non è questione di difendere, non è questione, sempre ma non è questione di difendere, tutt'altro. Di difendere gli ebrei. Qui stiamo parlando solo. Qui stiamo parlando. Aspetta un attimo. Un islamico sì. Che parla bene degli ebrei. Ecco, io poi le farò un applauso. Ma ogni sì, tanto è vero, si farebbe un po', si farebbe un po' di difficoltà, Maria Paola, no? Non c'è dubbio. Il problema fondamentale è un altro, si sta discutendo qui di un'altra cosa, si sta discutendo del titolo di un giornale che ha fatto parlare nel fine settimana, che ha titolato sabato Bastardi islamici. A mio parere è un titolo che per quello che è Libero, per quello che deve vendere Libero e per la libertà di espressione, di stampa che c'è in Italia, è un titolo assolutamente legittimo, in parte anche condivisibile se spiegato come l'ha spiegato Belpietro. Se fosse tutti gli islamici sono bastardi, ovviamente non lo condividerei, mi pare assolutamente normale. Però Parenzo vuole fare stasera la sua piazzata sul fatto che ho detto che l'Islam moderato non esiste. Diciamo l'avete che, sempre detto questo? No, io ho detto semplicemente che l'Islam è una religione più violenta delle altre. Oggi è una religione più violenta e su questo non c'è dubbio. Assolutamente è così. Cioè oggi non si uccide io il nome del cristianesimo, non si uccide il nome del cattolicesimo, non si uccide il nome del buddismo, si uccide il nome dell'Islam. Punto. Oggi è una religione più violenta delle altre, che ha germi di violenza più delle altre. Ma è così, ma una parte quello che è. Che è l'Islam politico, perché è uguale, allora io è non voglio cosa. Fare no, lezioni non è una a religione nessuno. Violenta, non è andate violenta. A vedere non è violenta. Quando gli non islamici è violenta. Andate a vedere a Sarajevo quando gli islamici avevano avevano la loro moschea a fianco alla sinagoga e a fianco una chiesa. Andate a vedere cos'era l'Islam negli anni 50, 60, 70 e anche 80. E allora? Il radicalismo islamico, andate a vedere come nasce, diventa Islam politico. Ma io oggi ho detto, in alcuni oggi posti, sto dicendo. In alcuni posti. Vabbè. E generalizzare e dire che gli islamici sono violenti, gli islamici, è una stupidaggine. Ma che c'entra gli islamici? Colossale. Vabbè. Pubblicità. E l'avete detto adesso, appena adesso. Pubblicità, adesso. Pubblicità. Pubblicità. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Io francamente continuo a non capire il motivo per cui uno debba essere cancellato da Facebook, ripeto, chi se ne frega, semplicemente per un commento, no, per sospeso, un commento. Sospeso, sì, per 24 ore. Poi vengono cancellati, altri. Sì, no, il commento al titolo di Libero, ovviamente il titolo di Libero si può discutere, uno può pensare che sia criminogeno, come ha detto Parenzo, pericoloso, quant'altro, adesso non mi ricordo neppure le parole esatte che ha usato, oppure pensare geniale, come penso io. Io addirittura credo di farne un poster a casa, con la cornice, con il vetro e tutto. Faccio un bel poster da mettere in camera perché lo trovo geniale. Cioè, al di là del fatto, io non voglio nemmeno dire lo condivido o non lo condivido, perché in fin dei conti poi non me ne frega niente. Però lo trovo geniale, tant'è che sabato giravo per Milano e poi l'ho recuperato in un altro modo, ma era esaurito in tutte le... non so quanto abbia venduto, forse meno del mio percepito, certo. Ma era esaurito. Ma può essere, certo, se uno in televisione mette uno che caga, ma non è quello, ma no, ascolto. Non è vero, non è così probabile, no, non è così probabile. Come pensi, non mette è così. Uno che urina, dice guarda quello che urina, no, ah, bello, no, ma non è e così, lo tiene lì, dai. Mezz'ora, non essere così, ascolto. Non dire sicuro? Queste banalità, dai, non è esattamente così. Non è così, non è affatto così, no, non è così. Mettetelo in cornice, fate quello che vuole. No, ma io metto quello perché lo trovo geniale perché uno ci deve pensare, ed è la genialità di il pensare. Il genio è altro, diciamo. Vabbè, ma lo trovo geniale nel nella genere. Nella cattiveria e nella banalità non c'è genialità in genere. Cattiveria e banalità. Allora, la cosa molto semplice è questa. Sì. Io sono ma sicuro. Sai che ho molti amici musulmani. Ma io ne conosco meno, però li conosco. Vabbè, musulmani. Io ho molti amici musulmani. Sì, benissimo. Che si sono sentiti offesi. Tu dirai chi se ne frega. No, perché no, non ti dico chi se ne frega. L'idea dell'Occidente, no, è chi è dell'offesa, non della libertà e del diritto. Ah, io no. E se io uno non penso si alla offende, io e non... chi se ne frega? Ho detto bastardi islamici. Non lo posso dire? Non lo posso dire? Bastardi islamici. Non bastardi l'ho detto, islamici. Ho fatto un titolo di un giornale. Bene. Il titolo di un giornale è diverso. È una cosa che offende, ma di... che è anche stupido e mala informa, peraltro. C'è due cose. Ma questo è un altro se è un discorso. Giornale satirico, informa, se è un giornale satirico, cosa ormai in probabile... in alcuni casi Libero è anche questo e tipo, allora, di funzione. Un giornale satirico, no, ma sai, The Sun, questi giornali qua, no? Questi giornali tabloid molto popolari, lì britannici, si può discutere, cioè, se è satirico, giornali molto popolari, ma britannici. Qui loro no, hanno preteso di fare informazione, tant'è che oggi ti spiegano anche cosa intendevano. Che dice, ci siamo fatti due risate, sti quattro stronzi dei islamici, abbiamo cagato in moschea. Vabbè, può far ridere, a me non fa ridere, ma potrebbe far ridere, no, a qualcuno. A me no, ma a qualcuno può far ridere. I miei amici islamici, alcuni, si sono offesi. Chi se ne frega? No, chi se ne frega? Perché chi se ne frega? Ci sono offesi. Adesso chiamerà qualcuno e dirà: bene, vanno ammazzati e uccisi tutti gli islamici. Cioè, questo è il clima che ormai tu puoi dici dire che libero produce queste robe qua. Ma non Libero direttamente, qualcuno, no, lo dico, produce libero. Odio nei confronti lo dicono, dei musulmani. Non dare troppo potere a Libero, che lo leggono, diciamo, una comunità piuttosto ristretta. Questo un po' saranno un po' meno 30.000, 40.000, quello che è, no? Vabbè. Ma comunque viene diffuso poi attraverso il web, no? Viene letto. Tu hai detto che l'hanno letto in tutto il mondo, tu stesso l'hai detto. No, che questa cosa qui ha reso questo, appunto, giornale simpatico, marginale. Beh, sentiamo Franco, diventato un giornale mondiale, perché ovviamente Al Jazeera e questi qui a un certo punto l'hanno visto, siccome ormai la comunicazione globale ha fatto grande il giro del mondo. Obiettivo, certo, raggiunto. Obiettivo, ma raggiunto. Qual era l'obiettivo? Quello di dire bastardi islamici? No, l'obiettivo raggiunto. Allora, se è raggiunto, evviva. Ma non era l'obiettivo di dire bastardi islamici. Ti ripeto, l'obiettivo era quello di provocare in maniera molto violenta, molto forte. Su un argomento popolare e di grande, come dire, di grande... Ma scusa, quando l'IRA faceva i suoi attentati terroristici, sì, qualcuno in Inghilterra, dei famosi giornali del politicamente scorretto, diverso, no? Detto... dicevano cattolici bastardi? Ma perché non ragionate? Beh, molti cioè, ma lo dice... che vuol dire? L'Ira, cioè qualcuno era, ha detto che Breivik a l'Ira diverso. Non era un movimento diciamo cattolico fondamentalista? Quelli che si facevano esplodere non dicevano no, scusami, Cristo l'Ira, è grande, Cristo l'Ira è grande, cos'era? Non l'Ira dicevano Cristo è grande. Qual è la differenza? L'Ira era un partito che si diceva cattolico. Assolutamente io dico sì. Si diceva perché non lo era in realtà. Sì. Esatto, perché secondo me non erano neanche protestanti, cioè erano dei terroristi. Sentiamo Franco che ammantavano le loro teorie con ma non so, non è un con la religione. Qualsiasi paragone secondo me è sbagliato. Quindi Franco, l'Ira non è un partito Franco cattolico. Dalla provincia di Bari, sì, era molto cattolico. Franco dalla provincia di Bari. Male. Non si faceva guarda esplodere il nome di Dio. Franco no, dalla provincia di Bari. No, facevano attentati terroristici in Cina. Non il nome però. Di Dio. In nome di un'altra c'entra? Cosa. Beh, c'entra, l'Ira, il partito dell'Ira era quello di portare i protestanti al potere. Franco, provincia di Bari. Ok, buonasera, ciao, buonasera a voi. Oh, niente, intanto che gli amici di Parenzo si sono offesi, a noi non ce ne frega un cazzo, perché quelli si sono offesi e invece ecco i parenti dei ragazzi francesi stanno ancora piangendo. Poi 8 musulmani su 10, io sono convinto che sono contenti di quello che è successo. Primo. Secondo, loro non possono venire qua. Questo non lo possiamo qua. Sapere, non lo possiamo sapere. Io stavo sentendo una trasmissione che in alcuni quartieri di Torino addirittura stavano festeggiando. Io non sono di Torino, non lo posso dire se è vero. Si vada lì e si arrestino. Alcuni quartieri sicuramente di Torino islamici stavano festeggiando. Chi festeggia va controllato. Non ti mettere in mezzo, siamo come il giovedì. No. Chi festeggia allora, questa roba va fermato sicuramente, non c'è dubbio, senza infingimenti, anzi. Allora, prima di tutto loro, non so, un paio di anni fa, avevano detto di togliere il crocifisso dalle scuole e tu da dove cazzo vieni, chi cazzo sei per dire a noi togli il crocifisso, non bisogna fare il presepe a Natale, ma qualcuno ti è venuto a chiamare da casa tua, sei stato tu che sei venuto qua e devi accettare la nostra religione, la nostra tradizione, le nostre religioni, che cozzalone questo qua, non puoi imporre, ma sembra che cozzalone l'Islam spiegato da che cozzalone sembra questo, dai che cazzo mi frega a me, che cozzalone, che cozzalone sei, fare che cozzalone cazzo, tu hai questa politica di buonismo, pare. Ecco, la politica di buonismo. Che cazzalone, è il film. Che cazzalone, straordinario. Devono andare al paese loro e fare cazzi loro al paese loro. Tu non puoi venire qua e comandare. Tu stai facendo qua, sei venuto qua a fare una vita dignitosa. Perché al paese tu stavi facendo la fame. Dai, di la verità che sei quel genio di Checco. E non puoi rompere il cazzo qua. Di la verità che sei Checco Zalone, perché non puoi dire delle cose così senza essere un attore. Sei Checco Zalone, di la verità. Sei Checco, no? Sei Checca. Sei Checco Zalone, te. Ma sei Zalone, sei grazie di essere intervenuto, sei molto divertente. E tu sei Checca. Bravo, Checco Zalone. Ma che Checco, Checca, dai, fra. E Checco Zalone, Vabbè, io so Checco Zalone, tu chi sei? Dice le cose allo stesso livello, diciamo, quindi. Perché Checco Zalone che dice? Tu che sei? Checco Zalone quando fa le battute del suo straordinario film e prende in giro i luoghi comuni come questo poveretto, è uguale. Parenzo. Checco è un genio, anzi, deve ridicolizzare gente come questa qua, appunto. Allora, Franco? No, Checco Zalone è un genio perché nei suoi film ridicolizza proprio gli stereotipi che tu stai mettendo ampiamente in scena. No, qui. No, tutto vero. Chi è vero? Chi è che ha detto che vuole togliere i crocifissi dalle scuole? Vabbè, quindi c'erano alcuni estremisti musulmani in Italia che non hanno avuto nessun seguito. Per esempio, a Natale chi è che non qualche vuole? Qualche giudice, qualche cosa. Non lo voglio io. Guarda che negli Stati Uniti, ad esempio, non ci sono negli Stati Uniti, che è un paese a maggioranza cattolico. Che cazzo me ne frega a me degli Stati Uniti? Che cazzalone è tornato fuori di nuovo? Lì c'è la bandiera, ad esempio. Perché in Israele togliamo qua la croce, ma com'è che si qua la candela? Non c'è, infatti. Ma guarda che il crocifisso, anche a me il crocifisso obbligatorio, il presepe, non lo vorrei nemmeno io, però se c'è chi se ne frega, cioè non faccio una battaglia per toglierlo. Però se da noi predicante, dai, è Zalone, la tradizione che sta il crocifisso in tutto, almeno io nelle scuole del paese mio le ho viste da tutte le parti. Vabbè. Quindi non puoi venire tu da fuori a dire togli il crocifisso, perché? Ma chi lo dice? Infatti siamo qua a dire il venerdì non di buttare a terra a pregare, non l'ho capito. No, Franco, d'accordo. Ma guarda che questo è il film, veramente. Non è possibile che sia una persona normale. Però vorrei fare. Anch'io sono contrario al fatto che ci siano, per esempio, simboli religiosi nelle scuole. Cioè, Che c'è di male? Io toglierei tutto come in Francia. Ma cosa c'è di male? Fa male a qualcuno? Offende qualcuno? Però non faccio una battaglia in una scuola per togliere il crocifisso. Chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Sono 100 anni, 200 anni, 300 anni che sta il crocifisso. Che fastidio ti dà? Forse è qualcosa in più. Antonio da Napoli, ho capito, ciao Franco, Antonio, vai. Salve, buonasera. Ciao. Volevo dirvi una riguardante alla questione dei bastardi islamici. Sì. Se siete a conoscenza della presa di posizione ufficiale del primo ministro australiano, sì, con l'appoggio dell'intero congresso, quindi del Parlamento, non del congresso, sulle comunità musulmane, cioè praticamente ha dichiarato ufficialmente, con una nota ufficiale, un'ora fa praticamente. Sì, ma pare che sia una bufala che gira sul web questa cosa qua del primo ministro australiano. È arrivata una notizia ufficiale sui siti web, adesso, sì, ha detto questa frase per cui se gli islamici devono vogliono venire qui a casa nostra devono rispettare le nostre loro, regole. Loro dicono, hanno detto, il primo ministro ha rivolto alle comunità musulmane che, e siccome l'Australia è un paese democratico, libero e quindi garantisce la libertà di religione, e quindi personale, che loro non possono più imporre, o meglio, non possono imporre alla società australiana libera e democratica il loro modo di interpretare la vita secondo la Sharia e secondo il Corano. Sì. Per cui se non accettano le condizioni di una società libera e democratica qual è quella australiana, devono lasciare il paese e tornare. Sì, ho letto anch'io questa cosa. Sì. Sì, questa cosa. Riferendomi al titolo di Libero, bastardi islamici, io non credo che i bastardi islamici possa offendere 1,5 milioni di musulmani, assolutamente. No. Io penso invece che il titolo di bastardi islamici, in realtà, anche se molto forte, interpreta la libertà di poter comunque, giornalisticamente parlando, l'interpretazione dei gravissimi fatti avvenuti a Parigi e in Francia che offendono. Ma sì, ma è come un'imprecazione, non so come dirti. Esatto, è come un'imprecazione di fronte al fatto che ci ma sono. Non interpretarli in ma è troppo. È l'imprecazione. Poi a me, di quello che ha spiegato dopo Belpietro, di quello che ha spiegato dopo Libero, non me ne frega niente. Era per rispondere prima a Parenzo. È un'imprecazione fatta a titolo di un giornale che vuole, nelle intenzioni, almeno secondo me, essere un giornale che interpreta un certo mondo e che dunque deve vendere delle copie. Questo è legittimo. È un'imprecazione. È un'imprecazione di fronte a un attentato. È un insulto, è diverso. Per me è un'imprecazione, come dire bastardi quegli islamici che hanno ammazzato 130 persone. È questa la cosa, trasformata in un titolo di un giornale. Perché c'è qualcuno che ritiene che quei terroristi siano. Io se c'è un islamico intelligente, ma da ci cosa chiami? Deriva ma secondo me l'offesa guarda, è ridicola. Guarda, è ridicola. Gli islamici, alcuni sono stupidi, alcuni intelligenti, come nelle tutte le certo, categorie umane. Gli islamici intelligenti ma non si offendono per questa roba qui. Ma quel titolo ha colpito? Perché il quotidiano Libero, così come il giornale, così come tu e molti altri. Io non faccio, mi attribuisci dei pensieri che non ho. Pensi per cui, e pensate sì, che lì ne hanno costruito una campagna fino a ieri, sì, che l'Islam moderato non esiste. Che l'Islam moderato è molto minoritario, allora, sì, è molto. No, che è non esiste. No, non che esiste, è molto residuale, sì. Che proprio non esiste. No, che vabbè, nel suo essere, lo dicono loro, ma almeno abbiate il coraggio di sostenere quel che dite, perché altrimenti diventa incredibile. Io non ho fatto detto questo. Abbiate il coraggio di sostenere. Ho detto che l'Islam. Quindi, siccome sostenete questa roba da anni, contiene nelle sue. Contiene. Innuce un germe voi di pericolosità, di violenza, ma bene, è così, bene, è chiaro che è così. Esatto, è chiaro che dopodiché poi ci sostenete. Sono quelli moderati, siccome quelli che lo sostenete, sono questi giornali il pensiero che lo sostiene, che non esiste l'Islam moderato. Vabbè, è chiaro allora che fare un titolo così è, come dire, la carta da 90 perché che cosa ti fa dire che siccome la campagna è non esistono islamici moderati, gli islamici sono dei bastardi. Ma non ci vuole un genio per vabbè, capirlo. D'accordo. È quello che avete detto tutti questi anni. Gli islamici sono bastardi, vabbè. Ha ragione Oriana Fallaci. Io non ho affatto detto questo sempre, ma no, almeno mi piaceva molto, ma non ma d'accordo, ma almeno sostenetelo fino in fondo. Vuoi attribuire adesso delle cose che io non ho mai detto, ma chi se ne frega, ma attribuiscimi quello che vuoi, non mi interessa. Non hai mai detto questo? Che cosa? Allora mi sarò sbagliato che cosa? Sì, ti sei sbagliato, ti sei sbagliato. Se mi sono sbagliato chiedo scusa, ma non credo. Vincenzo da Milano, vai Vincenzo. Cruciani? Sì, dimmi caro, dimmi. Pronto, ciao. Ascolta, per farla breve, subito all'inizio dico che sei un pagliaccio. Sì. Poi ti motivo tutto e te lo spiego. Vai, dimmelo, vai. No, perché tu come al solito tiri il sasso, poi ritrai la mano. Ma su che cosa tiro il sasso? Io ho semplicemente detto. No, fermo lì, io ho detto una cosa molto semplice. Non sono forse bastardi islamici quelli che hanno sparato a Parigi? Punto e basta. Io questo ho detto, punto e basta. Il titolo di Libero era Bastardi Islamici. Sì. Islamici è una categoria che comprende 165.000 fazioni. Ora, questi dell'ISIS, del Califfato Nero, chiamalo come cazzo ti pare, sì, mi sta bene, sono dei bastardi figli di Troia, se aggiungo io, non solo bastardi. Ma bastardi sì, islamici, tu e l'altro insegnante di lettere Belpietro, non potete far passare? No, ma io intendevo solo quelli che fanno. L'italiano sì, è l'italiano, ragazzi, non è che potete girarci intorno. Discute. Cioè, non è che ci devi girare intorno, no? Ma io, no, tu intendi. È come dire cristiani bastardi. Nei cristiani ci sono dentro i protestanti, i Battisti, i Medici, che cazzo. Sì, ti ripeto, siccome non è la prima volta, siccome giocavate sull'equivoco, era evidente che giocava sull'equivoco libero. Dai, ma meno sostenere questo. Ma perché la libertà, prima si facevano le manifestazioni per la libertà di Charlie Hebdo e adesso invece è libero e da condannare. A parte che io come sai, ritenevo sconveniente le vignette di Charlie Hebdo, pur il titolo di un giornale molto molto forte, molto assolutamente legittimo. La violenza subita da Charlie è talmente disumana che non aveva chiaro che invece questa non è disumana, la violenza dell'altro giorno non c'è neanche da dirlo, allora, ma appunto, è senza ombra di dubbio. Figurati che io, a differenza di Salvini, ero per bombardare lo Stato Islamico ancora molto prima, mentre loro adesso fanno i ganassa e dicono andiamo fermo lì. Zanzara, il professore avvocato Carlo Taormina. Buonasera professore. Buonasera a voi. Come andiamo? Benissimo, sempre bene, sempre ottimamente, sempre ottimo. Per professore, quello che mi riguarda, non per quello che succede nel mondo, per carità. Vabbè, quello per carità. Potrebbe difendere il califfo a questo punto, qualora venisse incriminato. Difenderesti da una il califfo, Carlo? Beh, avendo difeso, chi ha difeso lui? Drasco? No, la difesa Saddam difesa. Riguarda tutti, sì, Saddam Hussein l'abbiamo iniziato a difendere, poi siccome ci volevano ammazzare un avvocato approsso all'altro, ho detto preferisco campare, quindi non lo difendo più. L'hanno piccato, un avvocato, ma è andata benissimo lì, diciamo. Mi è andata bene. No, per il suo cliente, diciamo, il signor Saddam, non è andata proprio alla grande. No, lui se l'è svignato, no, perché a me è andata bene che non mi hanno ammazzato. Perché hanno ammazzato, dice, altri avvocati. Esatto, uno l'hanno ammazzato. Ho letto una proposta sul web a proposito di quello che è successo, Taormina. Che ha fatto? Professore, ho sentito una proposta sul web che hai fatto, che è quello di convocare ogni islamico italiano dovrebbe fare a Biura. Che cos'è questa proposta? Io dico una cosa. Siccome può essere facile l'accusa di diciamo così, di discriminazione razziale, perché a questo punto di questo dovremmo parlare, facendo di tutta l'erba un fascio. Io credo che su un punto tutti quanti possiamo essere d'accordo. Ci sono delle cose che da chiunque provengano debbono essere impedite. Le due cose delle quali mi interesso io sono queste. La prima, la possibilità, cioè la previsione. No, scusami, però che gli infedeli debbano essere uccisi. La seconda, la condizione della donna. Allora dico che gli islamici stiano in Italia va pure bene. A condizione che abbiurino. Io mi ricordo ai te che abbiurino a queste due cose. Io mi ricordo quando c'era il tempo delle Brigate Rosse, la Corte d'Assise di Roma, che stava giudicando un avvocato che era imputato di avere fatto propaganda a favore delle Brigate Rosse, difeso dal professor Vassalli, allora? Il presidente della Corte gli disse: lei abbiura alle Brigate Rosse. Lui non abbiurò e fu condannato. Allora, voglio dire, credo che sia giusto. Cioè, non tu però hai scritto, Carlo, tu hai scritto: guai a distinguere, tutti gli islamici debbono essere cacciati. Questo è scritto. Allora, tutti gli in moschee, sale esatto. di preghiera stanno preparando attentati in Italia, allora, certo. Allora, tutti gli islamici vanno cacciati, secondo te, dall'Italia. Allora, distinguiamo. Ma non distinguiamo, l'hai scritto o non l'hai scritto, aspetta, però, Galletti. Un momento. Questa è la sede per spiegare, no? Ho capito. Allora, la prima cosa è questa. Non c'è ombra di dubbio, questo mi risulta da quando facevo il sottosegretario agli interni con delega all'immigrazione e dove avevo fatto tanti anni fa, un tavolo. All'11 settembre, No, però Carlo, tu hai scritto guai a distinguere, non è che puoi scrivere una cosa e poi tirare il sasso Io non mi rimangio assolutamente nulla. Hai scritto anche il Corano è criminogeno. Il Corano è criminogeno. Beh, logico che il Corano è criminogeno. Nel momento in cui il Corano pure interpretato. Ma sarebbe come dire la Bibbia, anche quella. Ma certo, anche la Bibbia, non c'è nessun problema. Solo che nessuno si sogna di seguirla alla lettera, Corano, no? Non è che la lapidazione esiste ancora. La Bibbia è superata dal Nuovo Testamento, il Corano non è superato assolutamente da niente. Allora, tu dici il Corano è criminogeno? No, io dico... è criminogeno? Sì, lo confermo. Se il Corano è possibile interpretarlo in maniera tale per cui l'ISIS si proclama islamico e quindi legato al Corano, quello è un quello è un testo che deve essere considerato criminogeno. Per quanto riguarda la situazione italiana, io dico, per quelle che sono le mie consapevolezze, noi abbiamo oggi 15.000 sale di preghiera e moschee impenetrabili nelle quali... Ma chi ha detto che sono impenetrabili? Magari facciamo... accertare se ci sono armi e se ci sono soggetti che fanno... Che bisogna fare? Che bisogna fare. Quello che... deve essere fatto un accertamento per capire chi ci può stare e chi non ci può. Ma quello viene fatto quotidianamente viene fatto. Che no, vuol dire? No, non lo fa. Ma tu che faresti? Convocheresti tutti quanti? Nelle moschee non ci può entrare nessuno. La polizia non ci entra nelle moschee. Non perché non ci può entrare, perché non ci entra, perché la logica politica è quella di non farcela entrare. Allora, la prossima settimana voi saprete che in alcune moschee d'Italia, vedrete che avrete ma la sì, però andiamo... in alcune moschee d'Italia si fa l'ingaggio di quelli che devono andare a combattere per l'ISIS e mettendosi la cinta intorno per poter... Ma tu però hai scritto una cosa molto semplice, basta distinzioni, tutti gli islamici italiani vanno cacciati. Allora, ho capito. Infatti, fermola che c'è la pubblicità, poi ricominciamo. Sono rotto i coglioni, addio, ciao zanzara di merda. La zanzara. Allora ragazzi, altra polemica di queste ore, oltre alla vicenda di Libero, eccetera, eccetera, oltre che sul che fare a questo punto, intervento, non intervento, eccetera, eccetera, c'è anche la vicenda, un po' piccola certamente, della gestione televisiva, no, di questa vicenda. Per esempio la vicenda Barbara D'Urso, come è nata l'ennesima polemica sulla D'Urso, giornalista, non giornalista, può fare certe trasmissioni, non le può fare, polemiche a mio parere ridicole, che in questo caso però sono state innescate da chi? Sono state innescate dal capogruppo al Senato di Forza Italia, il signor Paolo Romani, il quale ha detto che è incapace, si deve occupare solo di pettegolezzi, non si può occupare di questo, non si può occupare di quest'altro. Dov'è il direttore di Canale 5? Insomma, scandalizzato per quello che è successo. Poi ha attaccato anche la piazza di Bologna, quella di Salvini, Romani, vabbè, insomma, ha messo dentro un po' tutto. Io dico, ragazzi, la signora della domenica televisiva ha trasformato, come è normale che sia, il suo studio in una specie di arena, no? Dove si attacca, si difende l'Islam, dove Alfano si fa chiamare ciao ministro, sentiamola questa, ma è Alfano che va da lei, eh? Cioè, giustamente la D'Urso usa lo stesso linguaggio che usa quando parla di un evento di cronaca, quando parla dei sei gemelli nati insieme lo stesso giorno, è uguale, non cambia, con emozione, qualcuno dice finta, qualcun altro dice vera, cioè è Barbara D'Urso, dice Barbara D'Urso non si può occupare delle stragi a Parigi, ma non c'è evento più emozionante che trasmette emozione alla gente di 130 morti in Occidente, è normale che se ne occupi una trasmissione popolare come quella, mi sembra assurdo pensare che non se ne occupi, uno può dare un giudizio, si scontrano opinioni diverse, non si approfondisce, nessuno dice che deve approfondire, no? Eppure si battaglia su questa cosa qua, su questa cosa piccola, addirittura un capogruppo al Senato interviene per dire che Barbara D'Urso non si può occupare di cose importanti secondo lui. Spiegaci, dobbiamo avere paura? Grazie. Oppure no? E che cosa farà il governo per evitare che noi abbiamo paura? Noi abbiamo ricevuto le minacce del califfo, dell'Islamic State. Basta bombe, dice a un certo punto la D'Urso. Però quella è un'altra bombe, cosa ancora. Basta bombe, però, basta libero, bombe, però, di tutto il mondo, Barbara. Basta bombe. È bellissima questa cosa, basta bombe, basta bombe, anche piuttosto, diciamo, come dire, ridicola a mio parere, che non vuol dire niente, basta bombe, come, però la stessa cosa dice no alla guerra. Sì, ma la stessa cosa dice Gino Strada, per esempio, cioè con parole un po' diverse, ma anche lui dice basta bombe. È uguale, perché io poi non ho capito. Ma lei interpreta anche lei comunque in quel caso, come dire, un umore, che c'è una parte del paese che comunque... Ma scusa, ma tu ti ricordi quando morirono? L'Italia non è mai stata in guerra. Quando morirono Bellini e Cocciolone, mi pare si chiamavano. In Iraq, i due Cocciolone, non mi ricordo come. Cocciolone si chiamava, uno Cocciolone, l'altro. I due soldati che eroi che andarono in guerra in Iraq, ma si scatenò giustamente come una canea pazzesca. Ma gli americani quanti soldati hanno perso nelle guerre? Sì, ma perché noi abbiamo questa cosa che se noi... perdiamo qualcuno in guerra è una tragedia, anche solo una persona. Che lo è una tragedia ovviamente, però la Francia in questo momento è il paese che è più impegnato nella guerra assieme ai curdi. Noi blatteriamo tanto, andiamo in guerra, poi non sa, gli effetti sono i titoli dei giornali con questi morti nostri, e questo che la classe politica non valuta. Perché senti questa cosa qua di due sempre della Ursula, non sono musulmani i terroristi. Senti. Questo è Hitler, voi con quell'atteggiamento che dimostrate. Ma questi non sono musulmani, Vittorio, non sono musulmani, capisci? Non c'entra niente con Maometto, Questa è un po' la posizione di Parenzo, cioè non sono musulmani quelli che uccidono, no? Non sono musulmani. No, uccidono in nome dell'Islam, questo è fuori discussione, è evidente. Ma ci sarà un problema che riguarda l'Islam? È un problema che riguarda l'Islam politico. Certo. Ah, no, la religione no, l'Islam invece. L'Islam trasformato in Stato, l'Islam politico, non c'è ombra di dubbio. Io voglio capire dal professor Taormina se bisogna cacciarli, chi bisogna cacciare? Dice a me? Chi bisogna cacciare, professore? Nel dubbio, allora. Nel dubbio? Nel dubbio bisogna cacciare, è inutile che ci prendiamo in giro. Ma chi? La matrice religiosa è assolutamente incontestabile. Ma chi cacci? Ma come... Nel momento in cui sono italiani questi, alcuni islamici vivono qui. Che sono italiani. E chi cazzo cacci? Se sono italiani che dicono che non uccidono gli infedeli e che trattano bene le donne, mi possono stare pure in Italia. Al di fuori di questa, vabbè, magari lo dicono, espressa, presa, no, una cosa è dirlo ufficialmente, un'altra cosa è dirlo. Io ho sentito centinaia di interviste in queste ore dalle quali risulta che una condanna certa, chiara, nei confronti di quello che è accaduto in Francia, io non l'ho sentita, o raramente l'ho sentita. Devo dire che in Francia c'è stata invece una manifestazione globale. Parenzo, ti voglio segnalare che Cocciolone è ancora vivo comunque. Infatti me l'hanno scritto anche me, ho sbagliato io. Erano solo fatti prigionieri, me l'hanno scritto, è vero. Non l'ho sentito da nessuna parte. Chiedo scusa. Con chiarezza. Per cui chi va cacciato però non ho capito. Però questo ti dà l'idea. Sì. Erano solo stati presi prigionieri e giustamente noi ci siamo indignati. Ma l'Italia si può o non si può garantire dal fatto che chi entra dentro il nostro paese non ammazzerà gli infedeli o non metterà le donne nelle condizioni in cui si trovano adesso secondo il Corano. Quelli trattano male, però trattano male pure i froci musulmani. Ma chi ha trattato, lo so che li buttano dai dirupi, per cui li buttano dai dirupi. Certamente una condizione. Questo è un altro problema. Che hai detto, Parenzo? Scusa, che hai detto? Lui li caccia dallo studio. Non ho capito, cioè non li fa entrare in studio. Stai paragonando l'ISIS a Taormina, no? Tutt'altro. Ho detto, ma è evidente che non. Ho detto, lui a entrambi gli stanno sulle scatole gli omosessuali con due reazioni diverse. Uno li caccia dallo studio, gli dice qui non entrano omosessuali, gli altri li lapidano, li uccidono e fanno le peggio bestialità. Ti pare che sia la stessa cosa? Secondo ma te. È chiaro che non è la stessa cosa. L'italiano è una lingua che conosciamo entrambi. Diciamo, io non ho cacciato nessuno, no? Avevi detto una volta proprio qui alla radio che non li faresti entrare nello studio, ma insomma poco male. Ho detto una cosa diversa: cacciare è un comportamento, pensare quello che si possa fare o non fare è un'altra però cosa. Con gli islamici ma non vogliamo mettere sullo stesso piano quello che succede in questo momento con questi islamici. È una cosa ormai non più sopportabile. Se continuiamo a discriminare, distinzioni e sottodistinzioni, non finiamo. Noi dobbiamo distinguere chi vuole la violenza. Dobbiamo distinguere o non distinguere? Ho capito, ma quello è chiaro. Anche il fatto che dichiarino che non vogliono la violenza, che non vogliono uccidere gli infedeli, che non vogliono mettere le donne nelle condizioni. Ma quello tutti a parole tutti lo dichiarano. No, ma intanto lo dicessero a parole. E come fare? Che devono fare? Un'assemblea pubblica di tutti i musulmani d'Italia? Quando prendono il permesso di soggiorno, devono firmare una dichiarazione nella quale rifiutano queste due espressioni. Vabbè, ma che ci vuole? Quella dichiarazione non si nega mai a nessuno. Ma non si nega mai a nessuno. Aspetta, Safir, Milano, aspetta un attimo. Ragionate in questo modo vuol dire che fate certamente favoreggiamento della situazione come quella che si sta verificando. Ma non facciamo nessun favoreggiamento, no? No, fate favoreggiamento. Ma quando mai? Perché, qual è l'obiezione? Favoreggiamento che può essere fatta ad uno Stato

Settimana prossima, musulmani in Italia come me. Settimana prossima dica, ti accorgerai di quello che viene fuori a proposito degli ingaggi che fate. Ma non la vuole, ma che fate? Vedrai che cosa viene fuori. Scusa Safir, tu vuoi fare sta dichiarazione o no? Non ma non ho capito che dichiarazione. Io voglio vivere, io sono onesto, voglio vivere solo in Italia e non voglio razzisti che dicono che tutti devono andare fuori come questo signore. Se non vuoi, se vuoi uccidere gli infedeli, non ci stai. Se tu in Italia tua moglie la vuoi, ma questi sono, ma io non capisco cosa dice questo non signore. Non ci puoi stare, signore. Ma tua moglie è sottomessa. Safir, tua moglie è sottomessa, no? A te? Sì, un po' sì. Cosa se? Tua moglie è un po' sottomessa, tu la no, la sottometti un po' o no? Cosa vuol dire questo? Come la tratti tua moglie? Io mia moglie voglio bene, mia moglie, miei figli. Ma anch'io voglio bene mia moglie, che ragione. Sì, ma non è questa la domanda. La domanda è un'altra, come la tratti? Come la tratti? Io tratto benissimo. Ma perché devo trattarla male? Non ho capito. Tu tratti malissimo musulmani in Italia. Quante mogli hai? Safir, quante mogli hai? Io perché fai questa domanda a me? Io ho una moglie. No, è importante. Beh, quante mogli hai? Dimmi la verità, dimmi la verità. Ma qua voi prendete in giro, io ho telefonato non prendiamo in giro, siamo contrari noi a più mogli, capito qual è il discorso? Quante mogli hai, Safir? Se state in Italia non ci potete stare con più mogli, perché questa è... Ma chi è che ha più mogli? Più mogli. Ed è un reale. Questo è, tu non conosci cultura di musulmani, tu non conosci questo, tu parli senza conoscere cultura di altri. Quante mogli hai? In Italia non puoi avere quante mogli hai? Hai capito? Non le puoi avere più mogli, capito? Questo è un reato, per cui devi andare nessun a nessun reato. Io posso avere quattro mogli, va bene? No, in mia no, cultura in Italia si può avere. In tu Italia non avere. Io posso avere. Avere. Io sono onesto. Quattro non faccio niente male non le puoi qua. Avere. Hai capito? Non le puoi avere quattro mogli. Vabbè, questo ma vuole questo vuole avere quattro mogli. No, mi dispiace, non è così. Vabbè, Carlo. Perché non è così che si rispettano le leggi dello Stato. Vabbè. Non è così. Vi lascio, ciao Carlo, ciao. Ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Ho capito che con te bisogna parlare solo di figa, perché se parli di figa con te allora si va tutto d'accordo. Quando c'è da fare un discorso serio è meglio parlare con Parenzo, perché ha dimostrato di avere più testa. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Ivan, provincia di Forlì, vai Ivan. Sì, ciao a tutti. Dimmi. Volevo solo dire che se sparavano agli italiani, noi magari chiedavamo anche scusa per aver urtato la loro sensibilità, ipocriti del cazzo. A chi ti riferisci? Ma mi riferisco a tutti questi italiani che fanno perbenisti, che pensano tutti che possono entrare nel nostro paese senza dover poi seguire le regole di questo paese, no? Ma nessuno pensa che quelli che entrano debbano seguire le regole, cioè nessuno lo sostiene. Cioè... Ma molti italiani pensano che comunque ognuno debba mantenere la propria cultura, ma se questa cultura va contro le regole del nostro paese, allora bisogna che loro modificano la loro cultura e non di certo noi le nostre regole e le nostre leggi, primo. Seconda cosa, volevo anche chiarire un altro aspetto. I musulmani purtroppo non sono sicuramente tutti terroristi, però in questo momento preciso va presa una scelta, no? Va fatta una scelta. Quale sarebbe la scelta? Va presa una posizione, nel senso che quelli che si ritengono non terroristi devono dichiarare espressamente, pubblicamente. Sì, ma sono tanti i musulmani comunque in Italia. Come si fa? È complicato dal punto di vista tecnico. Bisogna fare una dichiarazione pubblica come durante il fascismo. Che bisogna fare? È complicata una cosa del genere. Bisognerebbe fare un corteo di piazza, tutti i musulmani italiani che si sì, quello è vero. Bisognerebbe fare una bella manifestazione di piazza. Invece so che qualcuno prepara una manifestazione contro Libero, addirittura, vero Parenzo? No, o sbaglio? Non contro, ci sarà, credo. Facciamo proprio mi dicevi oggi o no? Ci sarà. Credo, ma possiamo sentire chi la sta organizzando, un legittimo sit-in per una manifestazione, perché devi ridurre la cosa? Un sit-in, una specie perché di manifestazione di fronte al libero. Perché sarà un sit-in, ma hanno detto. Vabbè, una manifestazione, quello che è. È uno di quelli che per dire il cazzo che fa parte dell'Italia. Per dire sì, per benissimo. Ecco. Per dire, lei lavora libero? No, visto il linguaggio. No, io non lavoro libero, no, faccio ecco, perché pensavo che il linguaggio lavoro era abbastanza qui. Ma faranno una legittima manifestazione alla quale peraltro spero di intervenire, perché mercoledì dovrei essere anche a Milano. I musulmani fanno la manifestazione. Quindi, cioè, tu vuoi intervenire in una manifestazione contro libero? Penso che forse, se sono a Milano, mercoledì sono a Milano, devo andare alla gabbia, quindi forse faccio un salto per vedere, qua vedo quali sono gli slogan della piattaforma, ma potrei anche passare e vedere chi sono, per dire che gli islamici non sono dei bastardi, ma ci sono dei terroristi bastardi che fanno dell'Islam un uso politico, e quindi questo, se degli islamici probabilmente italiani, vi trovate d'accordo su questo, eh? Probabilmente vi trovate d'accordo su questa cosa qua. Se degli islamici italiani che sono qui, giovani, alcuni di questi peraltro li conosco, parlano italiano, frequentano le nostre scuole, sono nati in Italia, perché sono ragazzi di 20 anni, nati in Italia, non mi risulta che abbiano intenzione di mettere delle bombe. Alcuni di loro non vanno neanche in moschea, ma pregano ad esempio a casa con la loro famiglia. Abdallah Kabakebji, ad esempio, fa il dentista a Milano. Ma sì, va bene. Il mio amico Abdallah Kabakebji fa il dentista a Milano. Ma va bene, sono islamici, benissimo. Quello, quando la mattina è andato in Cadorna e ha chiesto il giornale e ha visto tra i giornali islamici bastardi, si è, credo, legittimamente offeso, come mi sarei offeso io. Facesse una lettera di protesta. E quindi fa giustamente, non so se avverirà, una manifestazione con altre ragazze. Scusami, ragazzi, però, perché possono manifestare tutti e i musulmani italiani non possono dire che si sentono un tantinello offesi da un titolo offensivo. Qualche musulmano italiano che va a fare la manifestazione, possono? Mica tutti i musulmani italiani, qualche musulmano. Però scusa, perché non si offendono? Vanno a lavorare e se ne fottono, esatto, come dici tu. Scusa, scusa un attimo, perché invece non si offendono per un titolo a pagina 17 di Repubblica di domenica? Perché più o meno dice le cose che prima diceva Taormina, che prima che dice in sostanza Belpietro, che dice qualcun altro. Nelle parole Repubblica, non Libero, Repubblica. Nelle parole del Corano, i codici del delirio islamista. Il comunicato diffuso sul web è pieno di citazioni dal libro sacro. Colpita una festa della perversione, erano riuniti centinaia di idolatri. All'interno sono citazioni del Corano fatte dal comunicato. Il titolo, però lasciamo vedere il contenuto del titolo. Nelle parole del Corano, i codici del delirio islamista. Ma certo, perché cioè prendono ispirazione dal Corano. Però fermi tutti, adesso sai chi ti ho trovato? Ma no, sai chi ti ho trovato? Fermo, ti ho trovato una persona. Ti ho trovato una persona. Hanno detto che l'ISIS usa l'ISIS. No, non vogliono dire solo questo, dai. E usa il Corano per fare la guerra santa. Ma non esiste oggi un'altra roba. Te lo dice Renzo Guolo, qualunque persona che studia storia. Allora, fermo un attimo. Abbiamo scovato una persona, il numero di telefono di una persona a Roma, se non sbaglio, o a Udine, non mi ricordo. Adesso vediamo un po'. A Udine, che è in contatto con il califfo. Ah, quel professore, il pazzo, già sentito una volta. Agostini, il professor Agostini, te lo ricordi che dice di essere in contatto col califfo? Ma io voglio sentire se è ancora in contatto col califfo, con al-Baghdadi. Ma c'è un professore, che cos'è, di aeronautica mi sembra? Sì, un professore di aeronautica in un istituto professionale che viaggia anche in Siria. Professore, poi. Sì, un professore di aeronautica, il professor Agostini, che dice di essere in contatto. Se fosse insegnante di mia figlia, chiamerei scuola in quel caso. Agostinis? Parla. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Ah, salute, buonasera. Come sta? Come sta? Bene, bene. Senta, ma non ha più notizie del califfo? No, no, no, no. Cioè, da quanto tempo non lo sente? Cinque mesi. Cinque mesi non è così, non è così lontano. Ma non le aveva annunciato niente che ci sarebbe stata questa offensiva? No, facciamo humor stupido per piacere. L'ultima volta che lei ha contattato il califfo, vi siete sentiti? Come vi siete sentiti? Via mail? WhatsApp? No, questo non lo posso dire. Ah, non lo può dire. Ma che cosa le ha detto? Ma con lui direttamente o con la segretaria? Con lui? Non c'hanno segretari questi, non c'hanno. Non lo so. E che cosa vi siete detti? Si può dire? Niente, abbiamo la situazione, come si chiama, che è molto molto grave, insomma, non per l'Italia che non rischia niente. Insomma. Perché l'Italia non rischia niente, secondo lei? Perché l'Italia non ha fatto niente contro, come si è fatto solo un'operazione di intelligence, di supporto ad altri stati, quindi per me l'Italia è inutile che predisponga servizi di tutela, che per me non rischia niente. Chi vuole fare la guerra all'Islam è la Francia, la Russia, e quindi automaticamente si arrangeranno loro. Sì. E vanno avanti a 250 morti al colpo, insomma, va bene. Cioè, secondo lei è anche giustificata la reazione dell'ISIS? Ma insomma, l'ISIS vuole semplicemente che in Siria e in Iraq venga applicato, sì, il Corano, la parte integrale del Corano. Non gradisce che altri stati come la Francia, sì, o la Russia decidano, sì, che religione i siriani devono applicare in Siria. Dunque, da un certo punto di vista, questa reazione è giustificata da parte dei signori dell'ISIS? Beh, chiaramente il problema, loro hanno detto nella rivendicazione molto chiaro le cose: voi venite a uccidere donne e bambini in Iraq e noi andiamo a uccidere donne e bambini in Francia. La colpa è dell'Occidente, secondo lei? Ma cosa andiamo a esportare la nostra democrazia e la nostra civiltà nei paesi arabi? Ma è dunque giustificato? Ma insomma, se ammazzano donne e bambini in Siria e in Iraq, perché loro non devono... Cioè, la vita delle persone è una cosa seria. Lo so, appunto, però, appunto. Sono per la pace. Vabbè, lei è per la pace, però dice, se quelli ammazzano i bambini qua, perché gli altri non dovrebbero ammazzare i bambini da noi, giusto? Non è che io li giustifico, però... Beh, è una distorsione chiaramente che ci si può aspettare. Ma è una brava persona, secondo lei, il califfo? È uno che crede, come se lei ha visto la sua pagella quando aveva 18 anni. No, francamente no. Pagella del califfo. Se lei mi manda una mail, gli mando la pagella del califfo con allegata fotografia di quando lui aveva 19 anni. Non andava bene in matematica, ma evidentemente... Andava bene in chimica, però. No, in chimica no, andava bene in religione, nella religione islamica. In religione sicuro andava bene. Ma che insomma vuole dire con questa pagella? Non ho capito, professore. Lei lo ammira da un certo punto di vista? È un terrorista. Ma guardi, come si chiama, se noi credessimo nelle cose che facciamo come lui crede nelle sue, nella religione, io penso che staremmo tutti meglio. Tanto migliori, sì, perché qui in Italia parliamo tanto ma facciamo poco. Lei mi sembra che è affascinato da questo personaggio. Non lo considera un criminale terrorista da uccidere, come lo consideriamo noi, sicuro. Ma insomma, lei ucciderebbe il Papa, non so. Ma che è matto? Ma il Papa mica va. Ma il Papa mica arma i kamikaze. Ma lei, ma professore di che cosa? Lei è professore di a Topolinia, probabilmente. Ma perché dovete dire delle cose strane? Ad esempio, ma perché se lo paragona al Papa? Le stragi in Francia, lui non ha ordinato un cazzo di niente. Ma come no? Ma le ha rivendicati, ha addestrato quei 4, quei 9 terroristi. Ha detto questo. Ma lei non sa come funziona la struttura dell'ISIS? Sì, certo, qualcosa. Come si chiama, che fanno parte del consiglio della Sharia e che decidono insieme, e che lui è una persona più moderata rispetto agli altri uomini. Vabbè, ho capito, ma insomma, più moderata. Ma conosce come funzionano le cose. Più moderata! E secondo lei non è un terrorista? No, il califfo. Cioè, allora, senta una cosa, io dal 7 agosto al 20 agosto di quest'anno ero in Siria, cioè non so se mi spiego. Cioè, hai incontrato il califfo? Questo non lo posso dire. Cioè, voglio dire, se lei è andato in Siria anche ad agosto, non a mangiare il gelato ma i datteri, a incontrare questi criminali terroristi, la polizia italiana l'ha mai interrogata una volta? No, perché? Non posso girare dove voglio. Ecco, no, è andato in Siria per che cosa? Per vedere la mostra di... Lei va a Racca, è come andare, non so, a Livorno, capisci? No, non è la stessa cosa. No, è uguale, diciamo, però non importa. Cioè, io vado a vedere cosa mangiano, cosa vuole che le dica, insomma. Quindi uno va lì tranquillo e dice, salve, buonasera, sono arrivato qui. Così, funziona così, tranquillamente. C'è la polizia religiosa che gira, comunque. Beh, ho capito. Ma uno ci arriva, lei mi sta dicendo che uno ci arriva tranquillamente. Ci sono tanti europei. Ma scusi un momento, tutti quelli che vengono dalla Francia, dalla Germania. Ma quelli sono andati a combattere col pazzo scatenato, il suo amico terrorista. In Siria non li hanno mica uccisi, insomma. Li ma ti credo, perché combattono col pazzo. Ma guarda, c'è tantissima gente che torna anche a andare via, insomma, non è che resti lì, non è che sei... Ma lei lo sta dipingendo come un luogo quasi di vacanza, diciamo. Ma io non so, ci sono le illuminazioni, cioè sembra che si vada in un cimitero, e invece vede lì ci sono luci a pieno, illuminazioni a diurno, come si chiama, moto che girano, cavalli. Ma moto di chi? Ma gente con i fucili, ma... Bici SUV che girano di qua di là, ci sono dei posti dove manda le spiedizioni. Vabbè, lei è pazza, di Montone, non so... Le fiere di Montone, ma lei è pazzo. Vabbè, ma è un luogo di divertimento, dai, è un luogo di vacanza. No, è una città. Una città normale come le altre, Racca, dove hanno bombardato anche i francesi l'altro giorno. Io ho girato tranquillo, ho dormito abbastanza male perché mi hanno dato una cuccetta, cazzo, con una candela sul comodino, cazzo. Mi spiace. In un angolo, quelle cose lì. Però mi dispiace. Sono anche alberghi dove si sta forse un po' meglio. Non alberghi ci sono, alberghi, ho capito. Ma ci sono, leva fuori come si chiama Racca, ci sono dei posti, cioè, vede l'informazione. Ci sono degli alberghi interi con piscine, come si chiama, Hollywood party proprio, come si chiama, con camerieri in cravatta, come... Professore, grazie, arrivederci, mi salve, raccomando. Salve. Beh, amici miei, siamo al flop. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove stiamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Allora, un po' di sgarbi però, un po' di sgarbi dal weekend. Sgarbi sul cristiano non uccide, il musulmano sì, e anche su questa cosa si può riflettere, no? Cioè oggi non si uccide in nome del cristianesimo, del buddismo, eccetera, si uccide in nome dell'Islam, chiaro? Si uccide in nome dell'Islam. I signori amici, sono tanti sicuramente, islamici moderati, in giro per l'Italia, per il mondo, che non torcerebbero un capello a nessuno, ne conosco tanti anch'io. Ho letto una bellissima lettera, per esempio, di un tassista adesso a Londra, il quale è spaventatissimo, il quale è perché rischia di non avere più clienti. La gente quando sale nel taxi in questi giorni si mette un po' paura perché c'è un musulmano. Ed è questo l'effetto, no? Questo è uno degli effetti che produce questa storia. Però è chiaro che si uccide in nome dell'Islam, un'altra religione, in nome della quale poi si... Certo, questo è evidente. Beh, qualcosa vorrà dire questo, o no? Questo mi pare strano. Poi, per carità, c'è il petrolio, i soldi, il potere, perché poi spesso si uccide in nome dell'Islam, ma dietro i burattini bisogna vedere chi sono, no? Quelli che comandano magari non fotte un cazzo dell'Islam, gli importa solo del comando, dei soldi, del potere, eccetera, eccetera. Su questo non c'è dubbio, dei quattrini. Sgarbone. Quei morti, io sono martiri cristiani, quelli sono cristiani, Matteo, sono martiri cristiani, sono uccisi perché cristiani, e li avete uccisi voi, Parigi, il musulmano uccide il cristiano, Vittorio, per favore, no, non c'è cristiano, il cristiano non uccide, scusate un attimo, il cristiano ama, Garbi. Possiamo dire che l'atteggiamento che hanno gli islamici verso di noi è lo stesso che ha avuto Hitler con gli ebrei. Noi siamo gli ebrei, noi siamo quelli che devono essere uccisi. Ma non tutti nemici. Musulmani. Noi, ma Vittorio, non tutti musulmani. Non mi ascolti. Il musulmano moderato è già un meno musulmano, è come Mehdi Allan. Ma non è vero. Ma non esiste il musulmano. Ma chiedilo lui, scusami, lui rappresenta i giovani musulmani italiani. Sì, ma io lo so benissimo, posso dialogare con lui, ma io non voglio dialogare con quello che ha stabilito che io devo essere ucciso in quanto non sono musulmano. Anch'io posso essere musulmano e con ciò divento alieno al dialogo. Quindi noi, dicevo, conclusione qui viene Bifano, noi siamo come Israele, dobbiamo abituarci a essere come Israele. Sgarbi sostiene che il musulmano moderato in realtà non è il vero musulmano, perché se tu segui i precetti dell'Islam uno per uno non puoi che essere estremista, ed effettivamente è così. Cioè, dunque, quello musulmano che si dichiara moderato in realtà abbraccia un Islam, realtà è il primo nemico del califfo. Sì, ma quello non c'è dubbio, però è un islamico. Quindi vedi che allora è un islamico all'acqua di rose, no, però allora non, vedi, è un vero islamico, non è un vero islamico. Questo non è vero. Allora sì, vedi che però sì, avere sì, è così. Dalla cosiddetta parte nostra, cioè dalla parte dell'Occidente libero, quei musulmani moderati che sono vittime dell'estremismo fanatista islamico è il primo obiettivo da mettere insieme. Ma questo è un altro discorso. Vorrebbe dire, se no, se fosse vero quel che dite voi, che il... Quel che dite voi chi? Ma che dici? Cerca di guarire dalla tosse, che sono non si riesce nemmeno a capire. Un milione in Italia. Voi chi? In modo molto pragmatico. Voi chi? Ma di che parli? Tu, Libero, il giornale, ma di che chi parli? La pensa come te. Un milione ma non sai e mezzo, che dici? Non un sai milione che dici? E mezzo di persone che vivono qua. Uno e mezzo. E allora? Mi spiegate allora che cosa volete ma fare? Ma sono con musulmani per modo di dire, non sono musulmani. Ma non è vero. Sono musulmani così. Ma tu hai visto la grande se moschea di Roma, tutto, ad esempio? Se seguissero ma tutti la i precetti, di Roma, sarebbero contro la legge. Sarebbero contro la legge. Non è perché così. Sì, vatti a leggere quello che sì, scrive il Corano sulla donna, sulla guerra, sugli infedeli. Se lo seguissero la lettera, sarebbero contro la legge. Quelli sono tutti dei terroristi, quelli che vanno lì potenziali. Ali da Brescia, dai, Ali da Brescia. Brescia. No, chi ha detto questo? Sono allora, così, è come se andassero così un islamismo così all'acqua di rose. Il cattolico che va la domenica in chiesa e mangia solo le pastarelle. Solo che non c'è il cattolico che ammazza in nome di Dio, non lì da Brescia. Non c'è ombra di dubbio, tranne Breivik, non c'è ombra di dubbio. Infatti è un caso. No, isolato. Ali da Brescia. Infatti non c'è, per fortuna non c'è dubbio. Dimmi Ali. Infatti era un pazzo. Che sei muslim? Muslim? Sì, infatti è un pazzo, muslim, nessuno disse che era un cattolico. Aspetta, disse che era un pazzo. Vai. Sono musulmano io. Sì, sei musulmano. Io com'è? Dimmi Ali, dimmi. No, perché ho sentito prima l'avvocato che diceva che chi ha più di una donna, una moglie, va in galera. Allora io ho due, che devo fare? Mi preparo allora. Beh, ottimo, siamo al top, eh. Hai due mogli? Sì. Hai due mogli. In Italia tu vivi con due mogli? Sì, vivo con due mogli, sì. Beh, io conosco anche il signor Pupo che vive con due mogli, però non sono sposate legalmente, diciamo, no? No, sposate, il prossimo anno mi sposerò la terza. Ma come fai a sposarti la terza? In quale paese, scusami, te la sposi da un'altra parte? In Marocco. Ah, tu sposi tre persone in Marocco e vieni e le porti tutte in Italia. No, io ho già due qua. C'hai già due? E la terza verrà l'anno prossimo. Ma io rispetto tutto, ma questo qui è però. Qual è il problema? No, il problema è semplicemente che lei ci avrà N lavoro. Suocere, secondo me, dal punto di vista. Ma le suocere stanno al paese, a me non mi interessa. Ma lei suocere. Ha N suocere, poi avrà tre persone in casa contemporaneamente. Che gli diranno: Ali non fare questo, quell'altra, Ali non fare questo, quell'altra ancora, Ali non fare ma questo. Ma tu le tratti come schiave queste signore? No. Beh, ognuno ha la sua giornata. E com'è organizzata quella di queste signore? Come il menù, no? Si fa il menù settimanale. Cioè? Una al lunedì, una al martedì, sì, così si fa il giro. Cioè, a trombare, dici te? Quello a parte. Come fai? Ognuno ha la notte sua. Ognuno ha la sua notte. E loro sono d'accordo, vabbè. Se frega. È normale, secondo te, Parenzo? Non è normale. Scusa, ma non è che le ha sposate, avere come avere tre amanti, no? Ma mi pare che l'Italia. Che avere tre amanti, squadra. No, ma voglio dire, io non entro nel merito di questo qui. Però che Ali, dici di essere sposato, chi se ne frega. No, Ali dice di essere sposato in Marocco con due donne. Sì. Che ha portato in Italia. Adesso vai in Marocco, sposa una terza. Ma su, però, quanti scusami, cazzo di metri quadrati vivi? Ma scusa, se io vado negli Stati Uniti, no? E mi sposo a Las Vegas, no? Sì. Poi dopo arrivano altre due amichette e le metto tutte in casa. Qualcuno mi può dire niente, c'ho tre amiche. Scusa, questa in casa la poligamia è un reato, però, signora Lì. Ma non è sposato in Italia. Scusa, è meglio avere tre mogli che si conoscono che avere una moglie e tre, quattro o cinque amante. Vabbè, è diverso, dai, Ali. Ma tu te le scopi ogni tanto per te le scopi insieme o no? Te le scopi insieme o no? No, quello no. Mai. Ci sono delle regole rispetto. E quali sarebbero? Ognuno ha le sue pretese. Cioè che fa? Concretamente queste due come le gestisci? Vivono insieme innanzitutto? Che c'hanno stanze separate? La gabbia? Che c'hanno? Separate, non la stessa stanza. Ognuno ha la stanza sua. Ognuno ha la sua stanza. E sì. I figli quanti sono? C'ho quattro. E quanti da una e quanti dall'altra? Tre da una e una da una. Tre da una e cioè, una. Cioè, praticamente la poligamia è esportata in Italia, diciamo la verità. La poligamia è tutte. Scusa, perché qual è che fastidio do io alla gente? No, beh, così. Effettivamente non dà nessun fastidio. Non danno fastidio a nessuno. Pago le tasse, lavoro, qual è il problema? Ma no, ma per carità, nessuno dice niente. Diciamo che allora, queste qua in Marocco. In Italia lei non può legalizzare questa situazione, ovviamente. Ma vabbè, io vivo in Italia, ma le traduzioni mie ma la casa, io non capisco questo, quindi lei ha tre queste donne non vivranno due, adesso la terza che arriva, ma non vivranno tutte nella stessa casa? Sì, nella stessa casa, come no? Certo. Sì. Ma certo. Che casa c'ha? Una reggia? Quello che ho chiesto prima. Ma quante stanze ha? Più grande. Ah, appunto. Quattro stanze. Ma secondo me verrà fuori un delirio e si accorgerà lei che è un delirio, perché mettere tre donne in una stessa casa. Ma come fai a gestire tre donne, è un delirio. Amico mio? Comunque se gli piace così, che ti devo dire? Come fai a gestire tre donne? Io rispetto le regole. Le regole. Vabbè, ma ho capito che significa? Possiamo sposare quattro mogli, io ho due, la terza verrà. Però il Corano dice che potete, se riesci a mantenerle tutte. Sì, bravo. sì, io per appunto. E che lavoro fai? Ma cosa fa lei? Io faccio l'autista. Fai l'autista lì. E riesci a mantenere tre mogli? Ma se questo vuole avere due tre mogli, che ti devo dire? In Italia non è possibile legalizzare questa situazione perché la poligamia non è ammessa. Sì, ma a me non mi interessa, io tanto prima o poi tornerò a casa mia. in Marocco, al mio paese. Ah, perché non ti io l'importante è che il Marocco non il paese preferito da Salvini, tra parentesi, eh? Sì, è vero, vero, ve lo quello considerato da lui un paese eccellente. Sottolineo così, giusto per en passant, l'importante è che non do fastidio a nessuno. Poi quello che faccio a casa per mia, cui tu problemi. Questi qua che hanno sparato a Parigi, come li consideri? Assassini. E poi vorrei dirvi una cosa, sì. Basta andare su YouTube e mettete come titolo chi sta dietro l'ISIS e vedrete esattamente le fotografie, quello che corre sul chi? L'americano John May, una cosa del genere. John Wayne, quello che correva per le cose. Cioè, c'è una vecchia teoria, una teoria ancora, per carità. C'è la foto, c'è sta molti la dicono, foto. Molti dicono che l'ISIS è stata in parte creata anche dall'Occidente, sì, dagli Stati Uniti. Sì, perché io si tu vabbè, vai lì, mi raccomando, ma una faticaccia o due, adesso poi con tre, figuriamoci. Paco Belluno, vai, Paco. Paco. Amico mio, stavolta sei caduto non proprio nel basso quest'anno. Perché? Ma no, è inaccettabile. Allora, io sono musulmano. Sì. Io ho avuto una. Ti ricordo l'ultima volta che abbiamo parlato? Ti avevo detto che ho avuto una figlia con una italiana. Come no? Me lo ricordo benissimo. Come no? A 8 anni. Tu sei senegalese, sei? Sì. È nata nel 2005 quest'anno. Sì. A 8 anni. Sì. Non me lo fanno vedere solo perché sono musulmano. Ma, okay. Ma quello io sono dalla parte tua, da questo punto di vista. Scusa. Allora, cosa dovrei fare io? Siccome. No, aspetta, vogliamo raccontare molto bene questa storia. Perché voglio andare a fondo di questa vicenda. Perché e non anche ti... per secondo di Geova. Perché non ti fanno vedere questa figlia che hai avuto da un'italiana quando tu facevi sostanzialmente il venditore in giro? Bravo. E andavi in giro per il Veneto e insomma eri molto, no? Trombai a destra manca, diciamola tutta. Sì, cioè, trombai sì, a destra quello manca. Quello sì. E hai ingravidato un'italiana. Un'italiana che è testimone di Geova. Pure testimone di Geova, cioè un musulmano, un testimone di Geova e poi che c'è altro? Cioè, non lo so, vogliamo metterci. Genitori che sono buddisti. Una barzelletta, sì. Ah, cosa incredibile. No, giuro su Dio, ti giuro. Ti giuro che è testimone. Guarda, io. Vabbè, testimone di Geova. Ci sentiamo, tu ti do il numero di telefono. Sì, ma non ce l'abbiamo il numero, però domani mi racconti. Il numero della ragazza, dico. Ah, sì, ottimo. Bellissimo. Tu chiami come mio avvocato, tu direi. Cioè, fai finta. Ma siamo sicuri di questa storia? Sì, siamo sicuri. Guarda, ti giuro, ti dico io, ma cioè, io dovrei parlare. Non ti fanno vedere la figlia. No. Ah, è nata dell'uomo il 25 dicembre 2005 e non l'ho mai vista. Mai vista? 10 anni che mai non vedi vista. Tua figlia? E siamo a 7 km di distanza. Ma è una cosa incredibile, dai, su. Ma cioè... con quale motivazione, non capisco? Guarda, ti giuro su mie figlie. Ma perché non l'hai riconosciuta? Approfondiamo tutto. A domani, fermo, Paco, non posso più, dai. Purtroppo abbiamo una tagliola qua, a domani. Ciao Zanzara, sono un grande fan vostro e vi seguo da anni. Vaffanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.